Come ogni sera da lunedì al venerdì su Rock FM scatta l'appuntamento con Arden Davy, la voce quindi quella di Marco Gravelli con voi a darvi il benvenuto, buona serata, ben ritrovati insieme. Il nostro spazio di questa sera prevede come sempre un riallaccio al passato nella prima parte e poi tante novità. Domani già vi preannuncio che avremo nella seconda parte l'intervista effettuata nei nostri studi qualche settimana fa con Kay Jensen Gamma Ray, intervistato per noi e per voi dalla nostra Claudia. Come sempre vado a salutare il nostro autore Simone che ha preparato le varie segnalazioni, biografie, tracklist, nonché il nostro sponsor Mariposa Dischi Corso Lodi numero 1 qua a Milano. Si parte da una band hard rock americana creata dal chitarrista Ronnie Montrose, e Montrose era il nome del gruppo. Da giovane aveva collaborato con Van Morrison e vedeva in formazione per i primi due album il cantante Sammy Hagar, famoso poi per essere entrato a far parte dei Van Halen, oltre che per la sua carriera solista. Il gruppo fu formato nel 73, l'esordio risale al 1974 con l'omonimo album, che riscosse un buon successo, raggiungendo la 43esima posizione nelle charts americane. Per il secondo lavoro, Paper Money, c'è da segnalare l'ingresso di un tastierista, mentre successivamente Sammy Hagar lascerà la band per entrare nei Van Halen. Il suo posto fu preso da Bob James, con il quale hanno inciso altri due album. Nel 76 Ronnie mette la band da parte per dedicarsi anche lui alla carriera solista. Bisogna attendere il 1988 per il nuovo quinto album dal titolo Mean, ma il gruppo viene subito messo da parte per tornare di nuovo a dedicarsi alla carriera solista. Montrose da Paper Money, andiamo ad ascoltare il brano dal titolo I Got The Fire. Avrete riconosciuto proprio la voce di Sammy Hagar in questa I Got The Fire dall'album Paper Money, la formazione è quella dei Montrose, un altro gruppo ancora più famoso, come scrivono in molti, vengono considerati i padri del heavy metal. Sto parlando di una band che arriva da Birmingham e sono Judas Priest, eccoli qua, con il gruppo che nasce nel 69, creato dal bassista Ian Hill e dal chitarrista K.K. Downing. Il primo cantante fu Al Atkins, che militò nel gruppo sino al 73, ma che comunque non canterà mai in alcun album. Il suo posto fu preso dal bravissimo Rob Halford. La formazione fu completata con l'ingresso del secondo chitarrista Glenn Tipton. L'esordio, Rockarolla, è uscito nel 74. La notorietà arriverà con il secondo album Sand, Wings of Destiny. Moltissimi sono gli album da segnalare, quale British Steel, Screaming for Vengeance, Defenders of the Faith e anche, per certi versi, con cambi di sonorità, l'album Turbo. Dopo Remy Down c'è il cambio di batterista con l'ingresso del bravo Scott Travis, con il quale pubblicano il famoso Painkiller. Tutto sembra andar bene quando Rob Halford lascia la band. Il suo posto verrà preso dall'americano Tim Owens. Escono due album che si intitolano Jubilator e Demolition, che deludono un po' le aspettative. Ed è nel 2003 che Rob Halford annuncia il suo rientro in formazione, la successiva pubblicazione ad inizio del 2005 dell'album della Reunion dal titolo Angel of Retribution. La band attualmente sta lavorando al nuovo album dal titolo Nostradamus, la cui uscita era prevista per quest'anno, ma sicuramente slitterà nel 2008. Oggi andiamo a prendere un brano che chiudeva la side A di Defenders of the Faith, una canzone intitolata The Sentinel, Judas Priest. Silence falls as the bell ceases its chime. Upon this line, and the challengers with shrieks and cries rush forth. The knights fly out like bullets upon their deadly course. Screams of pain and agony rent the silent air. Amidst the dying bodies, blood runs everywhere. The figure stands expressionless, impassive and alone. Unmoved by his victory and the seeds of death is titolo proprio La Sentinella, The Sentinel, il brano che chiudeva la side A del vinile Defenders of the Faith. La formazione è quella dei Judas Priest, ritrovata quest'oggi nel primo appuntamento della settimana, il terzo, quello di mercoledì, se seguite la replica di Hard and Heavy. Andiamo invece agli Epica, già uscito nel mese di settembre su Nuclear Blast il terzo album, The Divine Conspiracy, per questa gothic metal band olandese dal cantato femminile, ad opera della brava e bella Simone Simmons, con diversi passaggi cantati in gutturale ad opera del chitarrista e leader Mark Jensen, ex After Forever. Per quanto riguarda questo nuovo album, è un concept e inoltre è presente come special guest il chitarrista cantante Sander Gomans dei connazionali After Forever in una traccia per le parti gutturali. Ricordo che gli Epica saranno in Italia il 19 novembre a supporto dei Sonata Artica e come special guest ci saranno anche i Ride the Sky. Li ascoltiamo col brano dal titolo Menace of Vanity. Say anything. formazione è quella olandese degli Epica. Saranno dal vivo insieme ai Sonata Arctic, abbiamo detto, a Milano il 19 di questo mese. Abbiamo ritrovato un estratto dal loro ultimissimo album. Visto che mi è stato richiesto durante la scorsa settimana, eccomi pronto, come promesso, a proporvi qualcosa legato al passato di questa band che si chiama Geordie, scritto Geordie. È una band di hard rock abbastanza leggero, celebre per la presenza soprattutto del cantante Brian Johnson, che poi entrerà negli AC/DC, ma che negli anni 70 ha pubblicato diversi singoli di successo sia in Inghilterra che nel resto d'Europa. Il gruppo inglese, precisamente di Newcastle, composto da quattro elementi, nascono nel 72. Dopo aver registrato alcuni singoli che gli permisero di uscire, diciamo così, dal sottobosco, entrano in classifica. Arrivano all'esordio nel 73 tramite l'etichetta EMI con l'album Hope You Like It, il cui singolo che ascolteremo, All Because of You, arrivò al numero 6 addirittura nelle charts inglesi. Per tutta la prima metà degli anni 70 i loro album hanno avuto un buon successo, ma con l'avvento del punk e successivo arrivo della New Wave o British Heavy Metal, la band perse popolarità fino a sciogliersi nel 78. Brian Johnson poi nell'80 entrerà negli AC/DC. Il gruppo si riforma con un nuovo cantante nell'83 pubblicando un album dal titolo No Sweat, che sarà anche l'ultimo lavoro in studio a nome Geordie. Infatti nell'85 cambiano il nome in Powerhouse e pubblicano l'omonimo album. Vi ricordo e vi segnalo che nel 2001 si sono riuniti con Brian Johnson soltanto per alcune date dal vivo. Allora andiamo ad ascoltare questo che è stato il singolo di maggior successo, All Because of You, con Brian Johnson alla voce. Si chiamano Geordie. I can read. Abbiamo ritrovato quindi le note di questo singolo intitolato semplicemente All Because of You per la formazione dei Geordie, e proseguiamo con un'altra grande band che avete visto dal vivo, forse molti di voi, il 3 giugno al Gods of Metal. Stiamo parlando degli Heaven and Hell. Cosa si cela dietro gli Heaven and Hell? I Black Sabbath con alla voce Ronnie James Dio. Hanno deciso praticamente che il nome Black Sabbath lo utilizzano solo quando ci sarà, se ci sarà ancora, con loro. Naturalmente Ozzy Osbourne. Il progetto con Ronnie Dio iniziò nel 79 in seguito appunto al licenziamento di Ozzy. Dio, ricordiamo, aveva militato negli Elf e nei Rainbow il suo ingresso fu importante per i Black Sabbath anche in fase di composizione delle canzoni. Il primo anno album che pubblicarono fu Heaven and Hell nell'80 ed il resto della line-up era completata da Tony Iommi, Geezer Butler e Billy Ward. L'album fu un grande successo con dischi di platino in America e in Inghilterra. Dopo il tour che ne seguì, il batterista Bill Ward dovette lasciare il gruppo. Il suo posto fu preso dal grande Vinnie Appice. Esce così un altro grande album dell'81, Mob Rules. Decidono quindi di pubblicare un live album, Lie Evil. E si dice che Dio di notte fosse andato negli studi per alzare il volume della sua voce. Era un po' incavolato perché piuttosto che mettere un brano in più, Tony Iommi ha voluto mettere un pezzo con un assolo lunghissimo, quindi cominciarono a litigare proprio per questo album dal vivo. E Dio si portò via anche Appice e abbandonarono i Black Sabbath. Dio ed Appice rientrano però nel 1992 per incidere l'album Dehumanizer, per poi riabbandonare il gruppo durante il tour. Per le ultime tre date del tour fu chiamato niente meno che Rob Halford e Judas Priest. Come noto, attualmente la formazione degli album Mob Rules e Dehumanizer è la stessa degli Heaven and Hell, che come vi dicevo hanno suonato al Gods and Metal e si stanno preparando per un nuovo album in studio. Intanto è uscito un album live di questo loro tour reunion di quest'anno, anche un DVD. Si tratta del concerto registrato a New York il 30 maggio del 2007, intitolato Live from Radio City Music Hall. E proprio da quel CD in questo caso noi andiamo a proporre le note di The Mob Rules. Heaven and Hell, quindi Black Sabbath con Ronnie James Dio alla voce, da questo prodotto live, un doppio CD live from Radio City Music Hall. Chiudiamo la prima parte parlando di Ken Hensley. 62 anni, polistrumentista, compositore inglese Ken Hensley, famoso per la sua militanza dal 69 al 1980 negli Uriah Heep, dove suonava le tastiere, chitarra oltre che cantare. La sua carriera solista invece comincia nel 73, ha pubblicato moltissimi album. L'ultimo lavoro in studio uscito lo scorso anno con Inside the Mystery, mentre poco tempo fa era uscito anche un DVD un DVD dal vivo. Ed ora è arrivato questo album intitolato Blood on the Highway. È un concept che si compone di 14 tracce di ottimo hard rock, presenti diversi special guest. Per quanto riguarda i cantanti, ci sono da segnalare Glenn Hughes e Jon Land, che canta questo brano, oltre che questo altri, per oggi vi propongo questo, You Got It, The American Dream, con alla voce appunto Jon Land dall'album di Ken Hensley. seconda parte di Arden Davis su Rock FM, la voce di Marco Gravelli con voi. Come sempre saluto e ringrazio il nostro Simone per averci preparato la tracklist di quest'oggi. Abbiamo iniziato la seconda parte con questa band, abbiamo presentato le scorse settimane altri estratti da questo lavoro interessante, album d'esordio Road of Bones, per questo è appunto il titolo dell'album e anche il motivo che abbiamo ascoltato per gli Ignitor, una band americana esattamente dal Texas, composta da 5 elementi, 2 sono donne, ovvero sia la cantante Erika Swinich, ex Autumn Tears, e la chitarrista solista Stuart Lawrence, ex Agony Column, gruppo che nasce nel 2003. Alle spalle hanno un mini CD nel 2004 dal titolo Take to the Sky, che fu nominato demo del mese per la rivista molto conosciuta e stampata anche da noi, Rock Hard. A 3 anni di distanza è uscito questo lavoro, che viene pubblicato in Italia dall'etichetta Cruz del Sur. A proposito di Italia, tutta italiana, è la prossima band che vado a presentarvi. Si tratta dei Macbeth con il loro album Super Angelica e The Bringers, che uscirà alla fine di questa settimana, il quarto album per questa gothic metal band di Milano, dal doppio cantato ad opera di Morena, voce femminile, e Andreas, la voce maschile. Leader del gruppo è il batterista Fabrizio, che ad oggi è anche l'unico membro storico della band, che ha creato i Macbeth nel 1995. L'esordio arriva 3 anni dopo con l'album Romantic Tragedies Crescendo, che li fa notare all'interno dell'underground, tanto da interpretare un tour di supporto agli Amorphis e la partecipazione ad una compilation della Nuclear Blast. Segue poi il doppio cambio di vocalist. È importante da segnalare stato il terzo album, Male Artes, uscito 2 anni fa, che gli ha dato una certa notorietà anche all'estero. Questo nuovo lavoro è stato anticipato dal singolo Without You, che, del quale è stato realizzato anche un video. La band suonerà il 16 dicembre alla Tenda di Modena e il 28 dicembre a Lucille di Verona. Li ascoltiamo col brano che apre l'album, si intitola Don't Pretend, Macbeth. Don't pretend down. Be my boy. un po' di notizie dal mondo metal e non solo. Partiamo con gli Stagium, nome di un supergruppo creato dal chitarrista Todd Seitz, che vede alla voce Mike Vescera, già ex Malmsteen ed ex Loudness, alle tastiere Vitagi Kuprici degli Attention e Ring of Fire, al basso Chris McCarvey degli House of Lord e alla batteria Mike Mangini degli Annihilator. Il gruppo ha registrato 3 brani per un demo e il genere si preannuncia come un progressive power metal. La band americana dei Death Angel sta lavorando al nuovo album, il cui titolo sarà Killing Season. Registrazioni terminate la scorsa settimana ed è da poco cominciato il mixaggio. L'uscita è prevista nel 2008. I Sirenia, la gothic metal band norvegese del chitarrista Morten Veland, ha dovuto annullare il tour di spalla Hyterion. Il motivo è l'abbandono della cantante Monica Pedersen per divergenze musicali. Attualmente il gruppo è alla ricerca di una nuova vocalist. In Nightwish, resa nota la band di supporto che li accompagnerà nel tour europeo e quindi anche quello italiano, saranno gli svedesi Pain di Peter Tadgren, già leader degli Hypocrisy. Andiamo a parlare invece degli Helloween. È uscito da un paio di settimane questo nuovo Gambling with the Devil dei tedeschi Helloween. È già tempo di bilanci, almeno così sta facendo la band, segnalando le varie posizioni in classifica. Numero 49 in Italia, numero 10 in Repubblica Ceca, 34esimo in Finlandia, 95esimo nelle Billboard Charts americane, non quelle ufficiali ma quelle per, diciamo, le etichette indipendenti. Gli Helloween, dopo la partecipazione al Gods of Metal di quest'anno, terranno in Italia 2 date, il 27 e il 28 novembre, a Roma e Milano, insieme agli Exis e soprattutto insieme ai Gamma Ray. Riguardo ai Gamma Ray, ricordo che domani trasmetteremo l'intervista realizzata con il leader, cantante e chitarrista Kay Jensen. Abbiamo comunque citato gli Helloween, che andiamo a proporre ad ascoltare dall'album Gamble with the Devil con Paint a New World. We honor. pezzi più sfida dal nuovo album Gambling with the Devil degli Halloween era Pain and New World. Ritorniamo al sound italiano anche con la prossima band. Dopo aver ascoltato i milanesi Macbeth, andiamo in quel di Cassino, paese in quel di Frosinone, dove arrivano i Vlad in Tears, gruppo composto da quattro elementi creati dal cantante e pianista Chris, che propongono un gothic dark metal sinfonico. A line-up completata registrano un promo autoprodotto dal titolo After the End, rilasciato lo scorso anno, che gli è valso un contratto con la Aural Music, tramite la quale è uscito questo vero e proprio album d'esordio, dal titolo Seed of an Ancient Pain. Si compone di 10 tracce, tra le quali, tre delle quali risalgono al precedente promo, completamente comunque risuonate per l'occasione. Per quanto riguarda il nome, è stato ideato dallo stesso Chris, dando una visione più sofferente alla figura di Dracula. Ecco perché Vlad in Tears. La band suonerà a Roma presso il Sinister Noise il 29 di novembre. Andiamo ad ascoltare Freedom from God, brano la cui versione originale era presente nel loro demo di debutto. Sono gli italiani Vlad in Tears. Abbiamo ritrovato quindi Vlad in Tears, ascoltati per la prima volta con il brano Freedom from God dall'album Seed of an Ancient Pain. Arriviamo alla prossima band, sono americani, propongono thrash metal, si chiamano The Miricus. Sono composti da quattro personaggi, da quattro elementi, nati alla fine del 2001. Grazie ad un EP nel 2005 ottengono un contratto con la Metal Blade. Così nel 2006 viene pubblicato il loro album d'esordio dal titolo Hellbound One, che gli è valso un tour di spalla agli IMSA. Con quell'album erano stati definiti come cloni degli Slayer. Sempre tramite Metal Blade è arrivato questo secondo album, Poverty 2, che si compone di 12 potenti tracce, come questa che si intitola Knuckle Eye. We'll be right back. Formazione dei The Miracles, ascoltati con Knuckle Eye. Arriviamo in chiusura di programma per il nostro primo appuntamento di questa sera, con un'anticipazione: avremo poi modo di parlarne meglio nelle prossime puntate. Hardcore Superstar verranno dal vivo prossimamente in Italia, questo è il loro nuovissimo album, noi ascolteremo un estratto, vi lascio con loro. Ringrazio come sempre Simone, il nostro sponsor, Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano, e ci ritroveremo domani sera, sempre a partire dalle ore 20 circa, su Rock FM con il nostro appuntamento di Hard and Heavy. Da Marco Garavelli è tutto, ciao ciao! Pressure and shame, no rules to be strong. Well,